Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Giovedì prossimo ci sarà una festa, interverranno dubbi personaggi. Organizzi qualcosa in tempo, un piccolo centro di ascolto. Segua le procedure in modo molto discreto. Mi raccomando, amici potenti. Nessuno dovrà sapere che lo tiene sotto controllo finché non avremo trovato qualcosa. Ora 23.04. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Rayman è un valido autore. Io lo metterei sotto controllo. Sotto controllo? Credo che stavolta sbagli, Wiesler. Rayman è pulitissimo. A controllare quello rischiamo di darci la zappa sui piedi. Ora 19.32. Niente di particolare da trascrivere. Abbiamo piazzato le più moderne microspie dietro ogni interruttore della luce, perfino in bagno. Abbiamo anche microtelecamere. Ha promesso di trovare qualcosa. Perciò trovi qualcosa contro quell'uomo, non mi deluda. Dottor Luca Palamara, buongiorno, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, oggi membro del CSM. Ecco, era un brano della Vita degli Altri, bellissimo film, cioè le intercettazioni e il loro uso lecito o indiscriminato. Sono un tema da risolvere oggi, è così? Buongiorno, io penso che oggi abbiamo altre priorità sicuramente che sono quelle legate ai fatti di corruzione. È ovvio che quando ritorna in ballo il tema delle intercettazioni è giusto sempre svolgere un serio momento di riflessione. Noi abbiamo necessità di utilizzare le intercettazioni nei naturalmente, ma questo per è evidente. Scoprire reati. Ma ciò che non va bene è evidente quando viene messo del materiale irrilevante che rischia di coinvolgere persone totalmente strane. Dottor Palamara, però cerchiamo di essere precisi. Dare le intercettazioni ai media senza garanzie per chi non è coinvolto nelle inchieste, di chi è responsabilità? È il funzionamento del processo. Oggi che cosa avviene? Quando si è intercettati si acquisisce la Procura della Repubblica, certo, un flusso di informazioni che chiaramente può attenere al processo e ai fatti per cui si procede, ad esempio una corruzione. D'accordo, volevo capire come funziona. Esatto, è un flusso di informazioni che sono evidentemente irrilevanti, perché al telefono si parla di più e del meno, della squadra di calcio, della fidanzata, di tantissime della moglie, cose. Del marito. Quello che è importante, e lo prevede già oggi la legge, un articolo specifico del codice, è quello di espungere tutto ciò che è irrilevante. Ora, qual è il problema? Che spesso, siccome vengono, come dire, introitate un enorme numero, mole di intercettazioni, ciò che è importante ed è fondamentale è mettere quello che è rilevante. Allora, che cosa, su cosa si discute e si può fare? Quello di prevedere un'udienza filtro nella quale... Però, scusi, dottor Palamara, voglio fermarlo un attimo prima, poi parliamo dell'udienza filtro. Cioè, c'è un lavoro che deve fare, immagino, il magistrato, rispetto a tutta questa mole di materiale intercettato, il magistrato dovrebbe fare un'opera di pulizia, no? Prima di tutto. Di selezione delle cose. Perché? Sì. Perché non capiti che chi non c'entra venga poi depositato negli atti, è così? Assolutamente sì, e lo dice la legge, ciò che è rilevante non benissimo, però vediamo continuamente che questo, fatto salvo, come abbiamo detto, che le intercettazioni ovviamente servono per fare le indagini e che ovviamente i giornalisti pubblicano le cose depositate, però quel lavoro di selezione va fatto, se no è una violenza inaccettabile. E oggi va fatto e viene oggi in prima battuta, chiaramente viene fatto solo nell'udienza preliminare, perché prima dell'udienza preliminare tutta questa selezione ovviamente non viene fatta, nel momento quindi... in cui il materiale viene portato all'attenzione e alla cognizione del giudice per la richiesta di una misura cautelare. E quindi c'è un momento in cui è a rischio un materiale che invece non dovrebbe esserlo. C'è un momento nel quale direi la difesa non interloquisce, interloquisce solo dopo, questo è il punto. Ecco, ma cosa ci racconta il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, a proposito di un caso specifico? Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto, una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata, perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, dottor Palamara, sono casi che capitano spessissimo, quelli di disattenzione, diciamo così, nel passare questo tipo di intercettazioni prima di averle filtrate. Allora, come non dare ragione al procuratore di Roma? Sullo spessissimo ovviamente non sono d'accordo. Quello che è importante è evitare che i casi possano accadere, anche un caso. Beh, una vita sola distrutta, se è quella di ognuno di noi, insomma, esatto, ci fa male. Un caso solo è un caso gravissimo, perché comunque rovina la vita di una persona. E proprio su questo era il discorso che facevo all'inizio: è quanto mai importante e opportuno che, fino a quando non ci sono, come dire, modifiche normative, ci sia una forte attenzione in prima battuta dell'autorità inquirente, in questo caso del pubblico ministero, per selezionare quello che realmente serve. Quindi non possiamo permetterci di mettere dentro intercettazioni o richieste di misura cautelari infatti e notizie irrilevanti. Ecco, perché, allora, per esempio, possono suscitare, come dire, il gossip o il prurito, informazioni che non contano. Ecco, perché diciamo che difendere la vita di chi è innocente o comunque non è indagato per far fare uno scoop a un giornale o alla televisione, beh, è un rischio che bisognerebbe evitare. Il primo compito del magistrato, e sarebbe un cattivo, un pessimo magistrato, oltre che passibile di sanzioni disciplinari, quel magistrato non attento a queste situazioni. Quindi lei dice è indispensabile usare le intercettazioni solo nelle utenze preliminari, prima di, come dire... Io dico che per evitare tutte queste problematiche si può anticipare il momento della selezione del fatto rilevante e coinvolgere anche le difese di fronte a un giudice. E questa è la vostra proposta, scusi, per essere precisi, questa è la vostra proposta, dottor Palamara? Questa è una proposta che ormai gira da tanti anni. Dico, sì, ma è una proposta, diciamo, che resta proposta per adesso? Assolutamente. Bisognerebbe una farla diventare un fatto, anni, legge. Coinvolta l'associazione magistrati, ma tutti i magistrati, come dire, più qualificati, sul fatto di creare questo momento di selezione che coinvolge anche le difese. E quindi voi intendete premere perché diventi legge questo? Assolutamente, questa è una cosa che è pure interesse della stampa. È naturale, è interesse di tutti. Perché tutti devono essere informati e potrebbe risolvere tanti problemi, perché coinvolgere la parte interessata nel dire questo serve o questo non serve, penso che è un qualcosa di importante per la collettività, per la società e per l'informazione. E una volta fatta, e su questo sicuramente ci può essere una richiesta importante. Ecco, una volta realizzata, quindi questa è la vostra proposta, diciamo. Sì. Ecco, e poi io in questo caso parlo a titolo personale, l'ANM naturale lo farà come richiesta dell'ANM, sì, e via dicendo. Ecco, e poi chi sbaglia paga, però. Assolutamente, questo sempre la regola fondamentale. Ormai purtroppo su questo tema rischiamo, come dire, di andare oltre. Beh, no, vale per tutti, vale per tutti i cittadini. A maggior ragione, ecco. come dire che un medico che taglia male o fa un danno appunto mentre opera non deve pagare. Eh no, lui paga. Lui paga. L'altro giorno. Allora dobbiamo intenderci, questa dell'intercettazione è una materia talmente delicata, molto, che impone un'attenzione talmente forte e importante da parte di chi indaga. Sì, ma non è che chi parla di intercettazioni da regolare nel modo che dice lei non vuole l'uso delle intercettazioni per fare le indagini. È chiaro che sono necessarie, è chiaro che le notizie vanno pubblicate, ma anche è chiaro che bisogna tutelare chi non c'entra. Assolutamente, ecco. Tanto è vero che siccome noi come magistrati teniamo tanto a questo istituto, perché grazie a questo istituto possiamo scoprire chi ha ammazzato, certo, chi ha rubato, chi ha rapinato, chiediamo chi ha corrotto, un uso accorto, certo, e ampliamolo ad esempio per altri reati come quello della corruzione, che consentirebbe, come dire, di scoprire ulteriormente un grave reato. Però ecco, va fatto ovviamente con cognizione di causa e soprattutto nel rispetto delle regole e della legge. Senta, dottor Palamara, l'altro giorno il procuratore di Milano Ilda Boccassini, a proposito di responsabilità civile dei giudici, appunto chi sbaglia paga, ha detto, virgolette, spero di non avere mai problemi perché non mi fido dei giudici. Allora se non si fida lei, noi cosa dobbiamo fare? Ovviamente questo io non posso interpretare il pensiero. No, neanch'io, l'ho letto sul Corriere della Sera. Interpretare il mio, io posso dire che invece l'obiettivo nostro è quello di avere giudici che sarà stata una battuta, la legge dice, nei sarà... confronti di tutti, e soprattutto lo sforzo, questo parlo anche come rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, di dare al Paese una magistratura sempre più professionale, attrezzata culturalmente, che però laddove sbaglia... Insomma, sarà stata una battuta. Me lo auguro. Senta, se un'ultimissima cosa, è soddisfatto della legge sulla prescrizione? Mi auguro che si vada adesso... Quello che si è detto ieri, diciamo. Le ultime vicende che stanno venendo pure all'attenzione dell'opinione pubblica sono una sconfitta per lo Stato prima che per sì, la magistratura. Sì, no, ma la proposta sulla prescrizione di ieri... È una proposta che sicuramente, come dire, va nel senso del miglioramento, dell'allungamento dei termini, e quindi da questo va bene, quindi va bene. Deve essere accolta con va bene. Favore. Grazie, dottor Palamara, grazie, voi, buon lavoro, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Viva la Rai, fa crescere strani, viva la Rai. Non si paga il canone Rai, punto, basta. Trasmettete qualche cosa di più interessante. Viva la Rai, con il suo impero. 13.000 dipendenti, 600 dirigenti, il 60% dei ricavi vengono fatti fuori. Viva la Rai. Qui stanno tagliando tutti, le famiglie sono anni che tagliano, se si chiede un contributo alla RAI indicando anche la strada, trovo francamente umiliante dover assistere a queste scene. Viva la RAI, che cosa giusta è con la RAI. I sacrifici i lavoratori della RAI ne hanno già fatti e continuano a farne. Il lavoratore della RAI, quante volte lo incontrai, quante volte mi incontrò. I cittadini chiedono trasparenza alla RAI. Il lavoratore della RAI, quante volte lo invocai, quante notti mi turbò. Professor Doglio, quale sarà secondo lei la RAI che ha definito Renzi? È una domanda pericolosa, perché in realtà non lo sappiamo ancora, nel senso che lui aveva promesso mesi fa che sarebbe stata seguita una procedura molto europea, quindi un libro verde, un libro bianco, con un'analisi delle situazioni strutturali del paese che avrebbe permesso di sostenere il punto di vista della istituzione che ha promosso l'iniziativa di riforma. In realtà sono uscite solo delle linee guida, degli obiettivi, poco più che una serie di obiettivi, senza contesto, senza dati a supporto, e quindi... Difficilissimi da giudicare, quindi. Difficili da giudicare, perché sono anche un po' estranianti. Sì. Estranianti in che senso? Beh, nel senso che ci sono delle apparenti contraddizioni, insomma. Tipo? Più o meno molti hanno. Beh, già solo l'idea che si sia pensato di proporre una riduzione del canone e poi contemporaneamente Renzi abbia fatto trapelare la sua idea personale che il canone andrebbe abolito, capisce che non è proprio la stessa cosa. No, beh, certo, il canone abolito non ha nessun rapporto col canone diminuito, ma pagato da tutti. Esatto, ma il problema è che il canone abolito configura un'azienda completamente diversa da quella che... Il canone abolito vuol dire un'azienda commerciale, punto e basta. Siccome è messo insieme quelle altre notazioni, però ufficialmente normale, ufficialmente quello non l'ha detto, quindi diciamo è un'opinione trapelata, ma insomma non ufficializzata. Diciamo che siamo tutti consapevoli che bene o male che hanno cominciato a parlare, perché questo è il punto, diciamo, positivo, e B che comunque è solo la prima stazione di un calvario che deve essere lungo, a concludersi a giugno del 2016, perché così non porta da nessuna parte per ora ancora. Ecco, però qualche punto fermo c'è, due secondo me principali significativi. Primo, non dipende più il giudizio della RAI dalla Corte dei Conti, quindi diventa in qualche modo un'azienda, cioè non un'amministrazione pubblica controllata con le procedure e i criteri dell'amministrazione pubblica. Questo è, come dire, slegare la RAI e rimetterla in qualche modo sul mercato. Secondo, l'idea di avere una governance unica, cioè un amministratore delegato di nomina governativa, ma tutto sommato forse sono sempre stati di nomina governativa. Questi due punti, dal punto di vista dell'efficienza, poi vedremo nel merito, forse sono due punti positivi. Potenzialmente sì, sono abbastanza d'accordo con lei, però anche qui mi trovo leggermente straniato, nel senso che da una parte questa idea del dell'amministratore delegato nominato dal governo, che non è una forzatura dei media, insomma è stato esplicitamente dichiarato così, è qualcosa che, come hanno notato non io ma i suoi insigni costituzionalisti, va direttamente in contraddizione con la famosa sentenza 225 del 74, quella che tolse la RAI dal controllo dell'esecutivo. Però mi scusi un attimo, dottor Doglio, però sostanzialmente è quello che è capitato anche con l'attuale governance, con Gubitosi e la Tarantola, che sono stati nominati dal Presidente del Consiglio con le procedure che passano attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza, che danno una veste di apparente governo del Parlamento, ma sostanzialmente su indicazione del governo. Quando parliamo di nomine fatte da governi transeunti in situazioni di particolare complessità, cioè, per carità, qui l'idea almeno di base, quella che sembrava qualche tempo fa, era quella di un ridisegno del sistema, era quella di fare un'operazione che in qualche modo è stato anche detto così in maniera esplicita, offendendo l'ex ministro Gasparri, che andasse in qualche modo a togliere la cappa della legge Gasparri a quello che è il sistema italiano dei media più avanzati. Però per il momento, perlomeno, non si vede il disegno, l'impianto di sistema, perché la Gasparri era un disastro, ma almeno un sistema l'aveva creato. No, assolutamente, certo. Senta, lei dice la RAI comunque non è un'azienda normale, non può e non deve esserlo. Cosa vuol dire? Sono convinto di questo. Le aziende, anche proprio all'interno, come dire, delle definizioni che l'economia dà del concetto di azienda dai tempi di Schumpeter, l'azienda ha uno scopo primario che è quello di fare profitti. Certo. La RAI è un servizio pubblico il cui scopo non può essere quello di fare profitti. Un profitto sociale, culturale. Deve riuscire a stare dentro un equilibrio di bilancio, non buttare i soldi dei cittadini contribuenti, ma deve raggiungere altri obiettivi che non sono obiettivi di carattere economico-finanziario. E cioè sono degli obiettivi di promozione culturale e sociale in qualche modo. Promozione culturale e sociale, di guida della evoluzione dell'immaginario collettivo di un paese. Poi qui ci si può aprire a tutte, ma certamente non sono quelli di fare un profitto. Certo. E quindi questa idea di un'azienda normale un po' mi preoccupa, perché messa insieme appunto alle altre cose che stiamo dicendo, dà come l'impressione che in realtà ci si voglia liberare dal servizio pubblico. Ecco, ma secondo lei, vabbè, sarebbe l'unico caso in Europa, secondo lei, come, visto che lei è contrario, se non ho capito male, al canone pagato nella bolletta del telefono, come, o della luce o qualche bolletta, come si può aggirare il problema dell'evasione fiscale, che è al 30%, e come lei sa non può intervenire non ci sono strumenti per far pagare il canone a chi non lo paga. Beh, guardi, qui il problema è annoso e quindi nessuno ha evidentemente la soluzione in tasca. Io dico solo che l'idea di mettere il canone ribassato in bolletta elettrica è un'idea che è già stata sperimentata in paesi come Macedonia, come Cipro, come la Grecia, dove la TV pubblica o è fallita o non è minimamente comparabile per dimensione. Ecco, ma lei cosa proporrebbe allora? Ma io penso che il problema del canone, lo dico da molto tempo e poi dopo può non essere assolutamente d'accordo con me, c'è chiaramente un problema di gestione del meccanismo di esazione che deve essere migliorato. Fare efficienza sul sistema di raccolta è possibile. Ma non è semplice. Non è semplice. Ma non creda che mettere in nella bolletta elettrica sia una cosa semplice. È più semplice. L'altra cosa, che è quella che non è economica, è che il canone si paga se la gente è convinta che in cambio ha qualcosa di preciso. E di questo è l'altro corno del problema, quello vero dell'invasione, certo, così alta, è che la RAI purtroppo ha perso nel tempo una distintività di servizio, per cui adesso la gente la vede uguale agli altri. Certo, non, ma perché in gran parte è una grande televisione commerciale, anche lei. E quindi arriviamo al punto che bisogna ripartire dal progetto editoriale, cioè dal senso che ha o non ha un servizio pubblico nell'era multimediale, multipiattaforma. E anche qui l'idea che io mi ero fatto un anno fa, quando ho cominciato a sentire che si parlava di una riforma, era che il governo avrebbe lavorato su questo, avrebbe fatto delle indagini, avrebbe messo insieme dei dati, avrebbe fatto delle cercato di capire quale poteva essere il nuovo profilo del servizio. Che è la strada un po' intrapresa da BBC, che è al rinnovo della Charta anche lei, certo, no? Certo, che è la strada che sta cercando di fare anche BBC, con le differenze solite che conosciamo, certo, e con quel tasso di coraggio in più per cui le ultime informazioni che arrivano da quel mondo dicono che stanno predisponendo dei passi non indifferenti. Di che genere? Di che genere? Per esempio, nell'ultima intervista il direttore generale ha comunicato che è sua intenzione separare l'attività produttiva, sostanzialmente nel giro di qualche anno mettere sul mercato i BBC Studios, cioè i centri di produzione, sì, per farli competere sul mercato. Che è quello che ha fatto la Francia, lo RTF, il servizio pubblico francese, all'epoca quando divise in cinque società e poi ne mise due sul mercato. Esattamente, sì. Adesso poi le ha rimesse tutte insieme perché non è detto che le cose vanno. Certo, perché c'è il pendolo. Nei momenti congiunturalmente significativi può essere opportuno fare delle scelte. Ah. L'altra cosa molto interessante, ma su cui purtroppo ancora l'alea è ampia, è quella di puntare direttamente a un servizio pubblico che si candida a essere un protagonista di quello che lui chiama il mercato globale, il single market, un unico mercato mondo, che ormai è quello che sta succedendo, dove quindi per chi produce capaci, in inglese, sì. Certo, dove quindi bisogna essere capaci anche di fornire, e questa è la stravaganza, quella che lui chiama con grande sintesi My BBC, cioè un servizio di personalizzazione dell'offerta, tale per cui usando le tecnologie che Netflix, Google stanno usando per fini commerciali, sia possibile invece consentire agli utenti del servizio pubblico una forma di personalizzazione del servizio. Sempre pagata col canone, perché lì loro hanno una certezza, ed è che a 50 centesimi per abbonato al giorno è il modo più economico per fare qualsiasi cosa. Ecco, non ce n'è per nessun altro, persino la commissione parlamentare che il mese scorso ha approvato per l'ennesima volta, lo fanno sempre prima delle elezioni, a dire che insomma il canone va superato, però sa con che cosa lo vuole superare? Con una tassa sulla residenza. Insomma anche loro stanno arrivando più o meno, cioè, o sulla residenza o nella bolletta elettrica, da qualche parte bisogna metterlo. Senta, ancora una cosa. Vabbè, intanto però è certo che nella riforma della BBC il punto centrale è quello di essere il produttore dei contenuti e non il distributore di contenuti di altri, come capita in gran parte alla RAI oggi. L'altro punto è quello che dicono tutti, ma nessuno sa come fare, si parla sempre di liberare la RAI dai partiti. Ecco, liberare dalla RAI dai partiti, al di là della retorica, che cosa può significare per davvero? Perché un servizio pubblico che dipenda in qualche modo dal Parlamento dipende per definizione dai partiti. E infatti la vera scommessa è quella di riuscire a creare una istituzione nuova, qualcosa che possa sicuramente essere nominata dal concerto, certo, della politica, ma che sappia trovare al suo interno un momento di stacco, un momento di autonomia reale, perché poi alla fine guardi che anche la famosa retorica sull'indipendenza della BBC è tutta legata alla cultura aziendale, certo, è legata alle persone, alle singole persone, molto di più che non avere un sistema formale che ti garantisce l'indipendenza. Avremo modo di tornare naturalmente, perché il percorso penso che sarà lungo, diciamo che si è appena cominciato a parlare, e questa è la parte positiva. Mix 24. Noi due abbracciati, rivo al mare, convinti fosse eterno amore, una stupenda cartolina, gli innamorati e la marina. Invece poi papà, tutto è svanito, da solo sono. Beh, innamorati e la marina, cosa è capitato? È capitato che, bagnato zuppo come una spugna, il professore di filologia bizantina era gocciolante, e non in ragione della pioggia, ma per aver affrettato l'attracco della torpediniera da cui è sceso prima del tempo, si è tuffato nelle acque del porto di Civitavecchia proprio stamattina per arrivare puntuale all'ingresso del liceo e consegnare un mazzo di fiori, anche questi bagnati ma di lacrime, alla sua amata ormai indifferente. E tutto è svanito sotto quelle stelle, ci diceva in metropolitana, ancora bagnato, e soffriva come un animale in una stupenda cartolina, questa di Giorgio Conte, Gli innamorati e la Marina. Ormai l'avevo ripudiata, con tutte le mie forze odiata, lei mi faceva troppo male, soffrivo come... E tu Mario come rispondi con la tua bolla di oggi? È una cosa italiana, dai. Nuvolari è basso di statura, nuvolari è al di sotto del normale. Nuvolari è a 50 kg d'ossa, nuvolari ha un corpo eccezionale. Beh. Piloti, automobili e quindi pneumatici. Certo. Voglio parlare di Pirelli. Sarebbe il caso. Beh, ho letto un po' di cose. Allora, la stampa italiana dice: come vendono ai cinesi? Ragazzi, si vende a chi ha i capitali, a chi compra. Vendono a chi compra, dalle mie parti funziona così, evidentemente mi hanno insegnato male. Come l'azienda italiana viene ceduta all'estero? Se c'è qualche italiano che vuol farsi avanti e sfidare, diciamo così, i mercati globali, si faccia avanti, va benissimo, no Giovanni? Mi pare naturale. Allora, la verità è che questi di China National Chemical Corporation c'hanno i soldi, progetto e comprano. Ora, sono comunisti, sono comunisti, pazienza. Non ho visto però nessuno spiegare se la questione, la faccenda, il business è un buon affare o no. Che sarebbe la cosa importante? Non è forse il caso di chiedersi che cosa stanno preparando i competitor e che cosa pensano i competitor di Pirelli? Cioè, secondo voi a Continental, a Goodyear e a Michelin non sono un filino preoccupati di questa mossa molto di Tronchetti? Scusate, voi immaginate che l'accordo con i cinesi apre o comunque facilita in maniera molto importante l'ingresso nel canale della distribuzione dei prodotti Pirelli dove? In Cina, cioè nel più grande mercato del mondo. Diciamo, meditate, riflettete, cioè le economie e i capitali vanno dove ci sono soldi e i soldi arrivano dove ci sono opportunità, funziona così. Salamino! E spegniamo la musica, perché vi vorrei raccontare di come l'istinto d'amore vince sull'istinto di sopravvivenza. Antonio e Maria Luigina, che si amano da sempre, si sono ritrovati avvolti dalle fiamme di un incendio scoppiato nella loro casa, a Torino, la notte tra lunedì e martedì. 87 anni lui, 81 lei. Lui ha subito chiamato aiuto, ma di quel grido è rimasto solo l'eco sul pianerottolo, eccetto che per uno dei vicini, che è riuscita ad aprire la porta dei due vecchietti con una scheda telefonica. Luigina brucia nel suo letto, Antonio è riverso, svuotato di ogni voce per il troppo urlare, e quando il soccorritore esce per aprire le finestre e dare aria, Antonio si muove ancora una volta, si alza e si chiude dentro. Si mette a letto con Maria Luigina e rimbocca le coperte di fuoco con lei per sempre. Sì, una cosa grande. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa quasi tu. Vabbè, un'emozione veramente, veramente grande questa. Sì. Una molto, storia. Una storia. Sara, tu invece ci metti un po' d'allegria? Vi ricordate l'IMU? Ecco, l'IMU, quella cosa conosciuta come la tassa sulla casa, anche se poi alla fine la mettono un po' su tutto. Adesso anche i gestori degli impianti sciistici dovranno pagare l'IMU. 25.000 euro l'anno se una seggiovia a 6 posti, 50.000 euro l'anno per una cabina a 8 posti. A me questa cosa puzza un po', non so, di follia. Allora, perché le ferrovie non pagano l'IMU sulle rotaie? Anzi, mi è venuto in mente una cosa, si potrebbe mettere l'IMU sulle cucce dei cani, mica vorranno farsi... Dai, questi sono Aiace e Dudù, sono preoccupati, hanno paura che i padroni gliele buttino, no, È colpa dei vostri padroni, ma non importa. Mica vorranno farsi scappare questa ghiotta occasione. Dico, sapete quante cucce di cani ci sono nelle case degli italiani? E le bocce dove i bimbi mettono i pesci rossi, allora? Lì niente Ibu, eh? Mix 24. Andiamo. Questo è bellissimo, questo è il Calciadere, Spooky, un pezzo strepitoso. E Samba e Sottilette, è molto bella questa storia della Kraft Foods. Tu sai che Kraft ha due marchi, uno in Nord America, è il gigante alimentare che tutti conoscono, e poi in Europa e Italia ha cambiato in Mondelez. E però molto interessante, perché qua un finanziere brasiliano che ha la 3G, che è uno dal tocco magico a quanto pare, si chiama Jorge Paulo Lehmann, e insomma acquista Kraft, parliamo di una cosa da 40 miliardi di dollari, ed è una cosa di grande immaginario, diciamoci la verità. Per noi italiani che cosa è stata e che cosa è la Kraft? Vi faccio solo due marchi, Philadelphia, Sottilette, Orosaiva, Milka, Fonzis, Splendid, Ritz, Chipster. Cioè, capisci, in America è Planters, lo snack assoluto, quindi è molto divertente ed è un segno dei tempi che tutto questo accada con un finanziere che viene dal Brasile. Vediamo se come scucirà questi 40 miliardi di dollari. Canzoniere! Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena non mi impedì l'andare a lui, e poscia che a lui fui giunto alzò la testa pena dicendo: hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena? 800 24 0024 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Andrea da Mirandola ci dice che noi terremotati emiliani dal prossimo giugno dovremo pagare l'IMU sulle nostre case diroccate. L'avevi dimenticato, Sara? Bolla! Vai! Grande pezzo dei Fugees, Killing Me Softly. Bella, ti piace questa versione, Giovanni? Mamma mia. Bella, bella calda. Vabbè, parliamo di assassini, compiuti, di innocenti, di colpevoli. Cosa c'è in prima pagina sul New York Times oggi, secondo te, che Giovanni? Cosa c'è? Io non l'ho visto. Amanda Knox. Ah, ecco. solo Amanda Knox. Non si parla di Pirelli, non si parla di Renzi. Di Amanda Knox. Ma di Amanda Knox, sì. Perché? Perché in fondo, come mi ha insegnato il maestro Buttafuoco, la forza del noir, del delitto, della bellezza della strega, come Maleficent, non ha pari. Dunque, tutti aspettano la decisione della Cassazione sul ricorso di Raffaele Sollecito e Amanda Knox, si riuniscono oggi, furono condannati a 25 e 28 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, e Sollecito sarà in aula, mentre Amanda, come tutti sapete, è a Seattle. Lei sta più tranquilla. Ecco, certo. Daniele ci scrive: il sorriso di Sara è stato contagioso, grazie a tutti voi. Siamo contenti, ma è contagioso perché c'è un amico che è venuto a trovarlo e viene da lontano, e quindi è tutta contenta. E intanto Salamino. Da partito liberale di massa a partito delle censure e quindi commissariamenti, le sostituzioni e le epurazioni. Insomma, che cosa succede? Succede che fugge da Forza Italia Raffaele Fitto, perché a parlare così era Gianfranco Chiarelli, fino a ieri capogruppo in Commissione Giustizia per Forza Italia. Dopo le dichiarazioni di voto sulla prescrizione si ritrova dimissionato ex abrupto, perché aveva colto l'occasione durante la dichiarazione di voto per attaccare Giovanni Toti e Maria Rosaria Rossi, titolari e custodi del cerchio magico berlusconiano. Allora, la questione è semplice: Chiarelli è fittiano e si capisce che cosa sta accadendo dentro il partito personale di Berlusconi. Lui stesso, il cavaliere, ha detto: non vedo l'ora che Fitto e i suoi se ne vadano. Sarà il più grande regalo che possano farci. Insomma, è quasi fatta. Mancano altri 6 parlamentari e si costituisce il gruppo degli scissionisti guidati da Fitto. Questo alla Camera. Al Senato invece è tutto pronto, i numeri ci sono. Ed è quasi fatta anche per la candidatura dello stesso Fitto in Puglia, così un'altra sconfitta per il centrodestra. Ma enigmatica, in margine a tutto ciò, la dichiarazione di Matteo Salvini. Enigmatica, quasi shakespeariana. Dice, che dice? Speriamo che Forza Italia ci sia. Le nostre porte, dice, sono spalancate a tutti tranne a chi governa con Renzi. Oh, io me la cavo con Nino Taranto. Ma se c'è uno che governa con Renzi è proprio Berlusconi. Si muovulisse bene, veramente. Non mi faresti sfruguli alla gente. Non mi tagliassi pizza da bandietta. Chi è che è venuto a trovarti? No, ma da Santo Domingo. Apposta, perché è un appassionato di Mix 24. Ecco a voi Franco! Franco! Ciao, buongiorno, come va? Venuto a trovarci da Santo Domingo? Sì, e c'ho anche una lacrimuccia sugli occhi questa mattina, lo sai? Mamma mia, che meraviglia! Che un altro che è così, che... Cioè, non ha telefonato, è venuto. Sì, ma un altro che ha il melo, il sentimento. Qui si piange tutti buoni. No, voi piangete tutti, non io. Vabbè, intanto, grazie Franco! Ciao ragazzi, grazie! Ci a pranzo oggi. Ciao. Marina, tu oggi che cosa ci racconti? Oggi seconda puntata su Tangentopoli, cerchiamo di fare un bilancio su quella stagione di inchieste con il commento di Emanuele Macaluso. Ecco, prima del giornale radio e della pubblicità, auguri a Mina, il suo compleanno, auguri con Insieme.